L'1 e il 2 ottobre torna a Bologna Eccentriche, storie di artiste fuori dal comune. Io sono qui per parlarne con la direttrice artistica Sara De Simone. Buongiorno Sara e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno, buongiorno a voi. Saranno appunto due serate anche quest'anno di Eccentriche, dicevamo l'1 e il 2 ottobre al Laboratorio San Filippo Neri. Ti chiedo subito, Sara, chi saranno le ospiti di quest'anno? Allora, quest'anno avremo veramente intellettuali e artiste di prim'ordine, eccentriche in primo luogo loro, prima delle eccentriche di cui parleranno. Avremo studiose del calibro di Nadia Fusini, Sara Sermini, Laura Fortini, Fernanda Alfieri, Claudia Marzulli e poi scrittrici come Caterina Venturini, Jana Karsajova, Nadia Terranova e Giulia Caminito. Ci sarà una cantante straordinaria come Mara Rebeghieri e attrici che presteranno il loro corpo e la loro voce alle eccentriche di cui parleremo. Ci saranno Fiorenza Menni, Olga Durano, Laura Pizzirani, Elena Bucci e Eugenia Del Bue. Le eccentriche a cui questa seconda edizione è dedicata sono Emily Dickinson, la grande poeta americana, l'artista francese Louise Bourgeois, la scrittrice Inés Cagnati, Clarice Lispector, la poeta russa Anna Akhmatova, le diciamo, donne della storia, mistiche, monache, indemoniate, Jeanne d'Esaange e Teresa d'Avila, la scrittrice italo-svizzera Alice Teresa e l'anarchica Virgilia D'Andrea. Come vedi, sono tutti nomi, da un lato sì, noti, però alcuni da riscoprire, no? Per esempio Alice Teresa, una grande scrittrice del nostro patrimonio italiano, eppure, diciamo, è conosciuta solo, spesso solo dagli addetti e dalle addette ai lavori. È una scrittrice di straordinaria potenza. Inés Cagnati, anche lei di origini italiane, però emigrata poi in Francia, e, insomma, se ne riparla perché è uscito da poco questa traduzione, no, in italiano di Jenny La Matta per Adelphi, e quindi è ritornata un po' sui nostri giornali, però appunto sono esistenze da scavare perché c'è davvero molto molto da imparare. Ecco, a proposito delle eccentriche, ti volevo chiedere come scegliete le storie di donne da raccontare appunto all'interno di questo festival? Sì, nasce, la scelta nasce da un dialogo con le ospiti. Io ogni anno, insieme diciamo a chi lavora con me a questo festival, iniziamo un dialogo con le ospiti, le artiste, le scrittrici che vorremmo invitare per decidere insieme quale sarà la figura che è anche più congeniale a loro, perché chiaramente si tratta di interventi chiaramente di divulgazione, ma con un'impronta molto personale, cioè le ospiti parleranno certo della vita dell'eccentrica scelta, ma parleranno anche di sé in qualche modo. Senti, ho visto che l'ingresso è libero, l'abbiamo detto al laboratorio San Filippo Neri, ma com'è possibile partecipare? Bisogna iscriversi, insomma, in qualche format o appunto è libero? Sì, basta andare sul sito del Laboratorio San Filippo Neri, cliccare sull'evento e ci sono appunto i riferimenti, una mail, un numero di cellulare a cui prenotarsi. Devo dire con abbastanza soddisfazione che è quasi tutto esaurito per entrambe le serate, quindi invito magari a prenotarsi quanto prima per chi vorrà esserci e festeggiare le eccentriche con noi. Perfetto, grazie mille Sara e ci vediamo insomma questo weekend al Laboratorio San Filippo Neri per raccontare insieme le eccentriche. Grazie a voi, a presto.